Le piace il panorama di giorno? Sì, mi piace. It's so hot and sunny. I wish I hadn't left my sunglasses in England. Ma non è un problema. Può comprare gli occhiali da sole qui. Yeah, that's a good idea. Sì, è una buona idea. Andiamo al negozio di Giovanni. È un amico. But what about the wine fair? C'è tempo. Ci andiamo più tardi.